in primo piano. Buona giornata, buona domenica da Mauro Meazza, come ogni domenica ormai da diversi mesi qui per la rassegna stampa dei quotidiani. Vediamo come i fatti che avete sentito anche riassunti nel giornale radio che ha preceduto questa trasmissione sono presentati dai maggiori quotidiani oggi in edicola. C'è un po' di cronaca, ma non solo cronaca, anche qualche anticipazione interessante. La stampa decide di dare il suo titolo principale, ad esempio alla cronaca sugli scontri no TAV in Valsusa, 15 feriti e 7 arresti. Alfano ribadisce: lo Stato non si ferma. Oggi la manifestazione degli amministratori, quindi la tensione torna a salire nella Valsusa. No TAV dopo gli scontri, sfida sulla zona rossa, è il titolo del quotidiano di Torino, quindi per ragioni geografiche ovviamente interessato e sensibile alle questioni della no TAV. Il ministro Lupi che invita i sindaci a non confondersi con i violenti. Sempre sulla prima pagina della stampa, lo avete sentito anche nel GR, le dichiarazioni del ministro Zanonato che ieri appunto ha detto: in autunno toglieremo l'IMU sulla prima casa, e sua intenzione sarebbe quella anche di eliminarla per quanto riguarda i beni immobili strumentali delle imprese, e stop all'IVA, quindi all'aumento dell'IVA che come sapete è congelato ma solo per 3 mesi, quindi c'è una necessità di redistribuire, di trovare diversamente le risorse, come lo vediamo poi da qualche altro quotidiano, perché le cose che si stanno affastellando, specialmente sul Sole 24 ci sono delle anticipazioni interessanti proprio a questo proposito. Grande foto centrale per la bella affermazione della medaglia d'argento della coppia azzurra dei tuffi, Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, ai mondiali di Barcellona, argento nel sincro per la coppia azzurra, questo sulla prima pagina della stampa. Restiamo, come dire, in area nord-ovest, perché il Secolo XIX, quotidiano che come sapete ha la sua base a Genova, decide di dare il suo titolo principale invece alla Costa Concordia. Ieri ci sono state le prime decisioni derivanti dai patteggiamenti. Il patteggiamento, quindi, in un certo senso è quasi una ammissione di colpevolezza, può essere equiparata a una sentenza di condanna, rappresenta un modo per ridurre anche la durata dei processi. Concordia, condanne e liti, scrive il Secolo XIX, che dedica poi a questa vicenda anche le sue pagine all'interno. Le parti civili lamentano la mitezza delle pene da abusi edilizi, così dicono, e critiche dall'estero perché si dice nessuno andrà in prigione. In 5 patteggiano, ricorda la prima pagina del quotidiano genovese, 2 anni e 10 mesi la sentenza più pesante, Schettino resta l'unico imputato. Ma non tutto sembra funzionare a dovere in questo dispositivo, in questa sentenza, perché appunto, come ricorda il Secolo XIX, l'ira di Gianpedroni da eroe a colpevole trattato dai PM in modo incredibile. E negli Stati Uniti, avverte sempre la prima pagina del Secolo XIX, è pronto a partire il processo Shaw per i risarcimenti. All'interno alla vicenda di Gianpedroni di La Spezia, era il direttore d'hotel, fu in realtà premiato dopo il disastro della Costa Concordia per aver contribuito a salvare molte vite, e lo ricorderete, era colui che poi fu recuperato dai soccorritori con le gambe spezzate in fondo a una stiva, si era prodigato appunto per salvare quanti più passeggeri possibili, per evitare il più possibile conseguenze nefaste da questo incidente. Gianpedroni oggi è un eroe, scrive Alessandro Grasso Peroni sul Secolo XIX, ma con una condanna sulla testa, e come contrastano le ultime ore con i giorni felici successivi alla salvezza, con le celebrazioni mediatiche. Fu definito il salvatore della Concordia, ma secondo il giudice ha omesso di fornire assistenza al comandante della Concordia, quindi questo farebbe qualificare i reati che gli vengono contestati come un comportamento colposo, quindi senza dolo, non c'è da parte sua, non ci sarebbe stata volontà di provocare danni naturalmente, ma anzi appunto il suo comportamento dimostra quanto si sia prodigato in senso contrario, però non avrebbe agito a sufficienza per aiutare il comandante Schettino, che a questo punto resterà poi l'unico vero responsabile su cui si concentrerà appunto il procedimento per il disastro della Costa Concordia. Questo su due pagine interne, prime condanne, pene da abusi edilizi, il titolo anche all'interno, su due pagine interne, vi dicevo, del Secolo XIX, quotidiano di Genova. E il Messaggero invece decide di dare una anticipazione che riguarda le pensioni. Esodati, il piano del governo. Esodati, un termine forse non proprio felicissimo, sta ad indicare, come abbiamo ormai imparato, coloro che sono stati in qualche modo colpiti dalla riforma delle pensioni varata nel dicembre del 2011 e si aspettavano, come dire, di ritirarsi con alcune regole, invece sono stati costretti ad attendere un tempo maggiore rispetto a quanto preventivato. Ecco, scrive il Messaggero, c'è un piano del governo per gli esodati che non rientrano nella salvaguardia già fissata per i primi 130.000. Infatti per 130.000 futuri pensionati che si erano trovati più vicini, più prossimi appunto alla pensione ed erano stati inizialmente invece fermati dalla riforma del 2011, ebbene per 130.000 di questi già una soluzione di copertura si è trovata e quindi hanno potuto ritirarsi con le vecchie regole, ma si cerca di trovare una salvaguardia ulteriore anche per altri che erano comunque abbastanza vicini all'età del ritiro. La soluzione da dove verrà, dice il Messaggero, dalla riforma della cassa integrazione in deroga e da eventuali nuove norme per la flessibilità dell'età di pensionamento. Per liberare queste risorse appunto da destinare agli esodati, allo studio c'è l'autofinanziamento, così come avviene per la cassa integrazione ordinaria, dell'ammortizzatore per le piccole aziende. Quindi il conto, come dire, di queste tutele sarebbe in gran parte poi pagato dalle aziende, dall'economia stessa. C'è naturalmente anche l'annuncio legato a questo titolo, che è il titolo principale del Messaggero sugli esodati, di Zanonato, il ministro Zanonato, che appunto ha detto in autunno via l'IMU e stoppa l'aumento dell'IVA, e poi il titolo centrale con la guerriglia dei Notava, assalto al cantiere, il ministro che ribadisce si va avanti. Questo appunto i titoli più importanti sulla prima pagina del Messaggero. Il Corriere della Sera decide invece di puntare su un tema fiscale non pensionistico, come abbiamo segnalato per il Messaggero. Federalismo, tasse record è il suo titolo principale, le addizionali locali cresciute in 20 anni 5 volte, mentre le nazionali sono raddoppiate. Ricorderete sul Sole 24 Ore dei giorni scorsi, a più riprese, almeno in 2 uscite, la segnalazione di questa crescita record delle imposte locali. Ci, come dire, torna a scaldare il tema anche il Corriere della Sera, segnalando appunto che negli ultimi 20 anni le imposte nazionali sono raddoppiate, ma che i tributi locali sono aumentati di 5 volte. Le addizionali IRPEF regionali e comunali negli ultimi 12 anni sono cresciute del 573%. Il loro peso sui redditi è triplicato, arrivando in alcuni casi oltre il 17%. E poi si ricorda nel richiamo e anche nel titolo l'annuncio di Zanonato, la promessa, come dire, di Zanonato: sarà abolita l'IMU sulla prima casa. Spazio per le decisioni dal Vaticano, le prossime mosse del Papa. Bertone in uscita a settembre e anche lo IOR cambierà. E poi in prima pagina sul Corriere della Sera una vicenda che è nata come vicenda assolutamente locale, cioè quella dello scontro, della polemica tra un assessore di Milanese e gli stilisti Dolce e Gabbana, ma che ormai ha conquistato un spazio un po' su tutti i giornali a livello nazionale. Aldo Grasso descrive questo assessore indignato speciale tra gelati vietati e alta moda, è il brano, l'articolo di Aldo Grasso sulla prima pagina del Corriere della Sera, che descrive appunto l'assessore D'Alfonso, l'assessore Franco D'Alfonso, che è poi l'assessore che nel corso di un'intervista ha detto questa, più o meno queste parole: il comune di Milano dovrebbe come dire, non concedere spazi nei confronti di Dolce e Gabbana, perché Dolce e Gabbana sono stati processati e sono stati ritenuti colpevoli di evasione fiscale. Allora dice, non per, appunto, per tutelare in qualche modo l'immagine del comune di Milano, secondo l'assessore D'Alfonso, con una uscita di cui poi lo stesso assessore si è scusato, ha detto che il suo pensiero comunque era stato travisato, il comune non dovrebbe dare spazi in qualche modo per dare un segnale contro l'evasione fiscale. La vicenda, come vi dicevo, è uscita dalle questioni milanesi e addirittura sul Sole 24 Ore ci segnalano da Napoli, Napoli è già pronta a ospitare l'atelier di Dolce e Gabbana. Se Dolce e Gabbana, come dire, hanno reagito con una protesta assolutamente molto visibile, molto forte, chiudendo i negozi per 3 giorni e inveendo anche sui social network dicendosi chiusi per indignazione, ebbene allora si fa avanti Napoli, dice se sono pronti, che sono pronti a discutere con Dolce e Gabbana il trasferimento del loro core business nella città partenopea. Bentornati alla nostra rassegna stampa, grazie anche a Paolo Corleoni questa mattina in regia qui con me. Io sono Mauro Meazza e vi do un resoconto sui titoli principali dei maggiori quotidiani. Allora, stavamo parlando prima della vicenda che vede opposti, della polemica che vede opposti gli stilisti Dolce e Gabbana al comune di Milano, una vicenda che, ripeto, era nata come una questione locale. Un assessore del comune di Milano dice una frase discutibile sul fatto che il comune debba o no concedere spazio agli stilisti, perché gli stilisti appunto sono stati accusati di evasione fiscale. Gli stilisti rispondono chiudendo per 3 giorni i loro negozi nel quadrilatero della moda, come sapete, punto nevralgico per il turismo e l'economia della città milanese, e esponendo dei cartelli in cui dichiarano che hanno chiuso per indignazione. Ecco, su Repubblica questa vicenda, anche su Repubblica questa vicenda conquista la prima pagina, oltre al Corriere della Sera, che appunto dedica un ritratto caustico fatto da Aldo Grasso per l'assessore protagonista della frase infelice, di cui poi lo stesso assessore si è scusato. La Repubblica invece, con un richiamo piccolo ma non invisibile, segnala un'intervista a Pisapia in cui Pisapia dice: l'indignato sono io, quindi non Dolce e Gabbana. Dolce e Gabbana se la prendano con il fisco, ora basta, gli indignati siamo noi. Perché? Perché, dice Pisapia, la Serrata è un'esagerazione, per la moda facciamo tantissimo, non ho visto chiudere i loro negozi per protesta contro guerre e ingiustizie. È vero, quella di D'Alfonso, l'assessore, è stata una frase infelice, ma poi ha chiarito e ha ammesso l'errore. Vedo il rischio, dice in questa intervista ad Alessia Gallione, che è su Repubblica di oggi, che l'Italia finisca sempre all'indice degli stranieri. La reazione di Dolce Gabbana è inaccettabile, è stata assolutamente sopra le righe. Fare una serrata per una frase infelice di un assessore, peraltro immediatamente chiarita. Ma dai, se si sono sentiti offesi, potevano prendersela con lui. Che c'entra? Milano fai schifo, così hanno scritto appunto i due stilisti. Sono molte le cose che fanno schifo, ma non ho mai visto chiudere i loro negozi per stragi, guerre o ingiustizie. Quindi questa vicenda appunto assolutamente locale, che ha trovato però uno sviluppo inatteso e nazionale. Visto che siamo su Repubblica, vi descrivo la prima pagina con i titoli maggiori: il PDL boccia il rimpasto Letta frena, quindi titolo politico, sottolineatura politica per il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Caso Alfano, la polizia a caccia del kazako pur sapendo che era un rifugiato. Tornano le polemiche sulla questione, sul caso appunto del che ci vede implicati con il Kazakistan. La polizia avrebbe avuto la segnalazione che si trattava di un rifugiato, quindi non andava rimpatriato, e l'avrebbe avuta per tempo o non non per tempo su questo appunto c'è, si discute, si cerca di chiarire. E poi sempre su Repubblica al centro pagina l'annuncio di Zanonato, in autunno via allo via l'IMU sulla prima casa e lo stop all'IVA. Il governatore Visco al G20 ha parlato di segnali di ripresa, ma serve stabilità. Questo è anche il titolo centrale, le dichiarazioni appunto di Visco al G20 sul Sole 24 Ore. Visco: l'instabilità frena la ripresa. Il governatore ha parlato di segnali positivi attesi nell'ultimo trimestre e Saccomanni, il ministro dell'economia, che ha detto meritiamo uno spread più basso. Questo è il titolo al centro pagina del Sole 24 Ore, ma il titolo più importante del nostro quotidiano è dedicato a una anticipazione sulla riforma del catasto. Perché dobbiamo riformare il catasto? Beh, soprattutto perché appunto quello che ha promesso il ministro dello sviluppo economico Zanonato è legato a un intervento ulteriore sul catasto, appunto. Si tratta di modificare un sistema che ha diversi punti deboli, racconta tutto nei dettagli Saverio Fossati, così come Marco Rogari invece descrive la probabile cancellazione del rincaro sugli aumenti IRES e IRAP, è un'altra anticipazione sul Sole 24 Ore di oggi. Fossati ci spiega che accelera il catasto fondato sul mercato. Qui tutto ruota naturalmente attorno al fatto che la determinazione del valore catastale, che poi è quello da cui si parte per tassare, sarà correlata alla superficie dell'unità immobiliare, non più al numero dei vani, criterio attualmente utilizzato. E per le unità immobiliari a destinazione cosiddetta ordinaria, insomma le case in cui vive la maggior parte di noi, il valore patrimoniale dipenderà anche da valore di mercato, localizzazione e caratteristiche edilizie. Quindi un sistema molto più articolato di quello attuale, con l'attribuzione di valori su cui poi intervenire per tassare, che dovrebbero essere molto più vicini alla situazione reale dell'immobile, quindi non tener conto necessariamente solo della sua consistenza maggiore o minore, ma anche della posizione, della possibilità o meno di affittare, quindi del valore di mercato, ma anche delle tendenze di mercato. Ci annuncia il Sole 24 Ore appunto che il comitato ristretto ha concluso l'esame della riforma, i valori saranno, questi nuovi valori saranno legati alle medie dell'ultimo triennio, si vedrà poi quanto potranno essere tutelati, quanto potremo essere tutelati come proprietari di casa, perché appunto come si annuncia sul 24 ore queste nuove tariffe potrebbero comportare anche dei rincari molto forti, sicuramente faranno lievitare le rendite catastali che appunto sono il valore di partenza. Questo per quanto riguarda le anticipazioni, quindi sulla riforma immobiliare, che è, lo ripeto, cruciale per poter attuare la promessa, l'annuncio dato dal ministro Zanonato, quindi di eliminare l'IMU sulla prima casa, l'imposta municipale sulla prima casa, e anche di congelare l'IVA. Poi appunto di conti pubblici si occupa diffusamente Marco Rogari, con appunto questa segnalazione: si va verso la cancellazione del rincaro per l'IRES e l'IRAP società. Come sapete, per trovare le coperture necessarie, i fondi necessari a evitare l'aumento IVA, si era deciso che a novembre sarebbero stati più salati gli acconti sulle imposte, e questo sulle imposte dirette. Questo appunto è il piano però del governo, che sta cercando di ridurre, di evitare questi aumenti che a novembre avrebbero indubbiamente un effetto pesante. Cosa cambierebbe per le aziende? Lo spiega Gianni Trovati, parla di un beneficio che vale 480 milioni. Questo sul Sole 24 Ore di oggi. Cambiamo invece completamente argomento per venire a un'altra importante vicenda internazionale, ma questa volta di tutt'altro segno. La giornata mondiale della gioventù si apre a Rio, l'incontro mondiale ce lo ricorda in prima pagina Avvenire. Giornata mondiale della gioventù, l'affido del Papa, giovani del mondo in Brasile, fede che cambia la società. E poi un'intervista al Presidente del Senato, segnalata in prima pagina su Avvenire, che invita appunto a consegnare il Nobel per la pace ai cittadini di Lampedusa, perché i cittadini di Lampedusa, dice, da anni ci indicano la strada di accoglienza, integrazione e solidarietà. Questo il lancio della presentazione dell'intervista sulla prima pagina di Avvenire, che poi nelle pagine interne appunto ribadisce con il titolo di questa intervista il mio impegno, quindi il Presidente del Senato Grasso che dice che darà tutto il suo impegno per una assegnazione del Nobel per la pace a Lampedusa. Non è invece una storia di tolleranza quella che sta su molti quotidiani, quella del consigliere di SEL che ha avuto come dire una infelicissima uscita, per non dire di peggio, e, nei confronti di una consigliere leghista, e, appunto invitando a affidarla a venti negri, quindi in qualche modo riuscendo a essere razzista al quadrato o al cubo, come preferite. La vicenda, questa infelice uscita, viene ricordata da molti giornali anche in prima pagina, per motivi comprensibili i giornali più politicamente schierati ne danno maggiore evidenza. Ad esempio sull'Unità, razzismo, bufera su SEL, parole indegne contro una leghista, la condanna di Boldrini, Laura Boldrini, presidente della Camera. E poi la rassicurazione degli organi di SEL, della Sinistra Ecologia e Libertà, che dicono sarà espulso. Si tratta di appunto un assessore comunale di un paesino vicino Venezia che su Facebook ha scritto che appunto sarebbe da lasciare questa consigliere leghista in una stanza con 20 negri, una specie di risposta altrettanto, come dire, sgraziata quanto quella della stessa consigliera leghista che aveva chiesto polemicamente come mai nessuno stupra la Kienge. Quindi diciamo che il livello complessivo della polemica è abbastanza demoralizzante. Visto che siamo sulla prima pagina dell'Unità, vi segnalo quali sono i titoli principali del quotidiano. Più forza o il governo non ce la fa, è un'intervista a Epifani, l'argomento scelto per il titolo principale dell'Unità. Per noi il caso kazako non è chiuso, braccio di ferro sul rimpasto. Ignorato l'asilo politico, appunto sempre parliamo del caso kazako, del caso Shalabayeva. In Kazakistan linea dura, segnala il quotidiano l'Unità. E poi Google e il fisco, anche qui una vicenda, come dire, di elusione, di profit shifting, così si chiama, appunto spostamento dei profitti in quei paesi dove si possono pagare meno tasse, una strategia attuata da molte imprese che hanno sede in più nazioni. Ecco, questo profit shifting è stato pesantemente messo nel mirino del G20 a Mosca, che ha incaricato l'Ocse di studiare una strategia appunto per impedire questi comportamenti. Su molti giornali oggi si ricorda appunto che Google, ad esempio, ha pagato una percentuale di tasse decisamente inferiore a quella che avrebbe dovuto se si fosse sottoposta normalmente al prelievo negli stati. Lo avete sentito anche nel giornale radio poco fa, appunto si ricordava come il risparmio per Google sia stato decisamente importante. E restiamo sui giornali, per così dire, di area. Per Libero il titolo più importante, quanto vale l'Italia, titoli, azioni, case, terreni, oro e beni, lo Stato ha un patrimonio di 1.000 miliardi e un debito di 2.500, Monti ci ha deprezzati, avverte Franco Becchis. sotto ancora, sempre nel titolo principale, Berlusconi che ha un passo dalla vittoria, il PD si impegna a eliminare l'IMU e a stoppare l'IVA. Notava arrestati, c'è pure il figlio di un magistrato, anche qui la vicenda appunto dello scambio di frasi inadeguate tra consiglieri, datela ai negri, il vendoliano incita allo stupro, così appunto Libero ricorda in prima pagina questa vicenda. Il Giornale invece torna sulle questioni giudiziarie, vietato difendersi dai PM, il titolo polemico del Giornale, perché il tribunale che vuole processare gli avvocati di Berlusconi fa a pezzi il diritto alla democrazia, così riassume il Giornale. E poi caso Ligresti, le figlie sbattute in cella ma nessuno sa spiegare il perché. Grande foto centrale per il Giornale per la vicenda che vede i protagonisti Anna Laura Millacci e Massimo Di Cataldo, appunto la gogna su Facebook perché la ex compagna del cantante ha deciso di dichiarare pubblicamente su Facebook le percosse che avrebbe subito, il cantante smentisce appunto dal suo compagno. Questo trova spazio su molti quotidiani, sul Giornale appunto la foto centrale. Ora noi ci fermiamo per qualche istante per ascoltare le informazioni sul traffico. E buona giornata e ancora buona domenica da Mauro Meazza, ultima parte della nostra rassegna stampa dedicata a una visione dei maggiori quotidiani, a un ascolto dei titoli dei maggiori quotidiani. Intanto io vi segnalo, in attesa del prossimo Giornale Radio alle ore 8 in chiusura appunto in coda a questa rassegna stampa, non ci sono per ora novità, segnalazioni di vittime per quanto riguarda la scossa di terremoto avvertita al largo di Ancona questa notte, una scossa appunto che ha avuto una magnitudo del 4.9. Ci sono state 8 repliche, ma su questo naturalmente saremo più completi nei servizi del prossimo Giornale Radio che potrete ascoltare alle 8 in chiusura di questa rassegna. Torniamo invece ai giornali di oggi. Sul Libero eravamo appunto arrivati a vedere Libero, che ha questo titolo dedicato al valore dell'Italia e che serve poi al quotidiano per ricordare anche come Berlusconi stia ottenendo un risultato politico molto importante, appunto così dice Libero, perché c'è l'impegno, e lo abbiamo sentito dal ministro dello sviluppo economico Zanonato, a eliminare l'IMU sulla prima casa e a stoppare l'IVA. Nelle pagine interne però ancora una vicenda di tasse. Vi abbiamo segnalato come sul Sole 24 Ore si diano delle anticipazioni importanti sulla riforma del catasto. Qui invece su Libero si ricorda che il 31 luglio scatta la prima rata della tassa sui rifiuti. Si chiama TARES, i piccoli esercizi tartassati perché produrrebbero più immondizia e i rincari sfiorano il 300-400%. Il titolo è estremamente sintetico e polemico. Le banche pagheranno meno TARES dei pizzaioli, così appunto descrive la situazione. È un'altra delle imposte che dovrebbero essere riordinate. Se ne parla appunto per quanto riguarda l'intervento che dovrebbe vedere protagonisti l'IMU, il catasto, quindi un intreccio per così dire delle imposte sugli immobili e sulle attività economiche connesse agli immobili. Un intreccio che dovrebbe essere sciolto, un rebus che dovrebbe essere risolto entro la fine del prossimo mese di agosto. Vedremo se il governo riuscirà in questo impegno non semplice. Sempre su Libero parliamo di falsi invalidi, perché una volta tanto non siamo finiti noi italiani come protagonisti di vicende di falsi invalidi, ma invece ci dice Simona Verrazzo, falsi ciechi ed evasori nelle isole greche ridono della merda. Due terzi dei non vedenti a Kalymnos sono imbroglioni, mentre a Rodi e a Zante non si paga l'80% delle tasse. Il servizio appunto Dice, si parla di una Grecia dai due volti, quello drammatico delle città che protestano, a cominciare da Atene, ma anche Salonicco o Patrasso, dove la popolazione scende in piazza per i tagli ai servizi della pubblica amministrazione e i licenziamenti negli uffici statali decisi dal governo per ottenere gli aiuti internazionali. Ma poi c'è quello delle isole che vanno avanti come se niente fosse, come se il buco nero del debito pubblico ellenico non esistesse, forti dei milioni di turisti che ogni estate affollano le loro spiagge ancora più piene in questi anni di crisi economica. Proprio per questa parte di Grecia, scrive Libero, la vita non è cambiata, mentre le città, come la capitale, sono costrette a tirare la cinghia, nell'arcipelago si continua a fare il solito, cioè vivere sulle spalle dello Stato. Ci sono state 152 ispezioni, due terzi dei cechi su un'isola, l'isola Kalymnos o Kalymno, si trova a est del Dodecaneso. Ecco, in seguito a 152 ispezioni, due terzi di coloro che si erano dichiarati ciechi e quindi percepivano, immagino, anche delle provvidenze adeguate per questo loro stato, hanno riacquistato la capacità di vedere, perché quindi evidentemente non erano assolutamente ipovedenti o non vedenti. Chiedo scusa. Torniamo invece sul Corriere della Sera, perché il Corriere della Sera ospita una intervista ad Alfano. Come sapete e come vi dicevo, su molti quotidiani si continua a parlare delle polemiche sul caso Shalabayeva. Di questo parla con Fiorenza Sarzanini il vicepresidente del Consiglio, appunto Angelino Alfano. Ritorna sulla vicenda precisando che alla domanda di Sarzanini, il suo capo di gabinetto Giuseppe Procaccini sostiene di averla informata della richiesta delle autorità kazake. Alfano risponde: è vero, ho ricevuto tre telefonate dell'ambasciatore kazako alle quali non ho potuto rispondere, per questo ho incaricato Procaccini di occuparsi della vicenda. Dopo l'incontro mi disse che il diplomatico chiedeva collaborazione per l'arresto di un latitante. Nulla di più, nessuno potrà mai dimostrare il contrario. Questa è la precisazione di Alfano. Lei fa parte di un governo di larghe intese, chiede poi in finale di intervista Fiorenza Sarzanini, in questa intervista appunto sul Corriere della Sera. Questo contribuisce a far fibrillare il governo costantemente. Risposta del vicepresidente del Consiglio: eravamo preparati. Sapevamo che un governo voluto fortemente da Berlusconi, quando disse che era l'unica strada possibile, avrebbe avuto una vita travagliata, soprattutto nella fase di avvio, non avendo precedenti storici, ma essendo stato preceduto soltanto da un forte scontro tra le parti. Siamo però riusciti a superare scogli difficili. Spero che, rimettendo al centro l'economia, si trovino soluzioni per tirar fuori dalle secche il nostro paese. E poi l'ultima domanda. In coda il veleno, si diceva una volta, lei ha tre incarichi, non crede di dover rinunciare almeno a uno? Era stata una delle battute emerse durante il dibattito parlamentare. Risposta di Alfano molto secca: vorrei sfatare questa favola, non ho deleghe da vice premier, dunque considerarlo un incarico aggiuntivo è pretestuoso. Il PDL poi ha un leader, Silvio Berlusconi, è una macchina organizzativa collaudata. Dire che non ero informato, quindi riferimento ancora al caso kazako, che non ero informato perché ero altrove, non è serio e soprattutto è falso. Così l'ultima frase di Alfano, del vicepresidente del Consiglio Alfano, al Corriere della Sera. Un'altra intervista ancora sulle pagine del Corriere della Sera è quella poi dedicata ad Antonio Di Pietro, dedicata al caso Raul Gardini. Qui andiamo decisamente indietro negli anni, torniamo a luglio del 1993, quindi 20 anni fa. Antonio Di Pietro racconta come il suicidio di Raul Gardini nella sua abitazione qui a Milano fu per lui un colpo particolarmente duro. Il rammarico di Di Pietro: avrei potuto salvarlo, doveva venire in procura, invece si sparò. Il mio errore su Raul Gardini: non lo arrestai per una promessa. Qual era stata questa promessa? Che appunto avrebbero concesso a Gardini di recarsi in procura con le sue gambe. doveva raccontare, dice Di Pietro al Corriere della Sera, molte cose, dal miliardo portato a Botteghe Oscure ai giornalisti corrotti al grosso della tangente Eminimont. Avevo dato la mia parola agli avvocati che sarebbe arrivato in procura con le sue gambe, quindi dissi ai carabinieri di lasciar perdere, di non recarsi appunto ad arrestarlo. Se l'avessi fatto prendere sarebbe ancora qui con noi. Questo il rammarico di Di Pietro sul Corriere della Sera. E con questo concludiamo la nostra rassegna stampa. Grazie a Paolo Corleoni in regia, e da parte mia, da Mauro Meazza, una buona domenica a tutti.